Ecco l'Homo sapiens, le sta da Dio mandà. Ecco l'Homo sapiens, chissà cosa il vorrà. Potere già pare, man pare il mondo conquistar. Potere già pare, man pare il mondo conquistar. Ecco l'Homo sapiens, che intelligenza astuzia, per buttare i boschi per far vedere città, pianure, mari e monti, tutto quanto lo occuparà. Pianure, mari e monti, tutto quanto lo occuparà. Ecco l'Homo sapiens, mi lo vedo rabbia, te odio e cattiveria, lui sempre starà, morte di istruzione, e sarà bombe somena. Morte di istruzione, e sarà bombe somena. Ecco l'Homo sapiens e se fa male da solo, dissi abilità, il lo accecarà, a fare due il farà, ma mare natura sto fregarà. A fare due il farà, ma mare natura sto fregarà. Ecco l'Homo sapiens, mi lo vedo piangere, finalmente sente di aver piena coscienza, e se pentirà di questa le umanità. E se pentirà di questa le umanità.